negativo, abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. Sì, e la... siccome i passeggeri hanno capito che avete fatto indossare i giubbotti di salvataggio, è corretto? Attento, stiamo verificando le condizioni del blackout, stiamo verificando le condizioni del blackout. Centrale operativa Capo Pintori. Capo Pintori, allora, la situazione abbiamo... Chi sei, Canicati? Sì, abbiamo... Dimmi, vai. Comunque c'hanno una falla e la nave è inclinata. Hanno una falla e la nave è inclinata? Sì. Dimmi, vai avanti. Niente, quindi ora abbiamo fatto uscire l'800 da Santo Stefano. Ma allora li ha urtati gli scogli, sti... Loro inizialmente, le ripeto, noi tanto abbiamo le registrazioni radio, hanno detto che era un blackout. Sì, però formalizzano il fatto che loro non avevano chiesto assistenza, perché questi sono stronzi, questo comandante qui lo dobbiamo mandare in galera. Guarda. Infatti, va bene. Ok, grazie, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Io una volta salita sulla scialuppa ho pensato che fosse veramente la fine, perché la scialuppa non scendeva, la nave era troppo inclinata e ho pensato proprio è finita. Eravamo a cena sul ponte 5, abbiamo sentito un grandissimo botto, ma non ci hanno comunicato nulla, sembrava non ci fosse nessun allarme. Poi la nave è iniziata a inclinarsi. Storie di notti molto buie e di naufragi in una puntata tutta dedicata alla Superbia. Succedeva tutto 8 anni fa, era il 13 di gennaio del 2012, quando una nave da crociera che ormai abbiamo imparato a conoscere benissimo e che abbiamo imparato anche a riconoscere ormai, che si chiamava Costa Concordia, urtava gli scogli a largo dell'isola del Giglio e naufragava. Quella storia ci è arrivata e avete sentito in apertura le voci tra la capitaneria di porto e parte delle persone operative sul luogo in quella notte. Ci sono arrivate così, ci sono arrivate molto, molto frammentate, molto frammentarie. Tra l'altro è successo di sera tardi, erano le 10:15, quindi le notizie sono arrivate lentamente, quasi alla spicciolata il giorno dopo. Tutto è accaduto quella notte, era la notte del 13 di gennaio del 2012. Noi oggi, proprio in concomitanza di questo tristissimo anniversario, cioè a distanza di 8 anni, proviamo a non a ricostruire quella storia, proviamo a raccontarvi pezzi di quella storia. Lo facciamo grazie a Patrizia Perilli, che avete sentito in apertura, la voce era la sua, che è una giornalista di ADN Cronos, che era a bordo della Costa Concordia. Lo ha raccontato più volte, è già stata ospite in diversi luoghi per raccontare la sua esperienza e lo farà anche qui. Le abbiamo chiesto di raccontarci che cosa è accaduto quella notte, che cosa si ricorda e anche come è cambiata la sua vita. C'è stato però anche chi poco dopo il naufragio ha scritto quello che viene definito un instant book, cioè un libricino che viene scritto proprio a ridosso degli avvenimenti. Sono Fiorenza Sarzanini e Marco Imarisio, che hanno appunto raccontato un altro pezzo di quella storia. Hanno raccontato un pezzo che è accaduto sull'isola del Giglio, che cosa accade quella notte tra gli abitanti dell'isola quando si trovano arrivare una dopo l'altra le scialuppe con i sopravvissuti al naufragio. E loro tra l'altro iniziano con una frase molto chiara che dice così: il mare era una tavola, la luna illuminava la sera, la nave andava tranquilla. La causa primaria del naufragio, la decisione dalla quale discende una catena di eventi terribili, risiede dunque solo e soltanto nei peccati capitali, la superficialità, la vanità, la vigliaccheria, che la sera di venerdì 13 gennaio 2012 sono incrociati davanti all'isola del Giglio. Noi in questo programma vi raccontiamo storie di vizi capitali, legate ai vizi capitali, e spesso ci capita anche di raccontarne di nuovi, proprio perché le vostre storie che ci arrivano sembrano raccontare di vizi che non sono stati ancora schedati, non sono ancora stati riconosciuti in quei 7 storici vizi capitali. Noi questa puntata l'abbiamo dedicata alla Superbia, perché quello che è successo là su quella nave, sulla Costa Concordia, è probabilmente dovuto moltissimo in parte a Superbia, in parte ad Accidia. E in questa puntata vi racconteremo poi altre storie, le storie della Costa Concordia, questo ve l'abbiamo appena raccontato, ma vi racconteremo la storia di un altro naufragio, un naufragio avvenuto più di 20 anni fa al largo della costa sudafricana, dove un'altra nave da crociera, più piccola e con meno persone a bordo, faceva naufragio, e quello che faceva il comandante su quella nave era molto molto simile a quello che è accaduto al largo dell'isola del Giglio, al punto che a salvare tutti i passeggeri di quella nave nel 1991 al largo di Cape Town era il chitarrista della band che suonava a bordo della nave da crociera. Ma andiamo con ordine, partiamo con la storia che è accaduta 8 anni fa. Sono le 21:45 e siamo al largo dell'isola del Giglio. Lei cosa ci fa qui? Ci sono domande della gente comune che valgono più di qualsiasi accusa fatta da un magistrato. Franca Caverio era davanti al computer, abita in una casa affacciata sul porto, ma l'allarme su una nave che stava affondando l'ha ricevuta via Facebook. Si è vestita, è uscita di corsa. Ha raggiunto gli scogli davanti alla Costa Concordia ormai inclinata, nella posizione che tutti abbiamo imparato a conoscere. Cerca di aiutare. Diventa un anello della catena umana che sta aiutando i passeggeri spaventati che scendono dalle scialuppe. È lei ad accogliere a terra il comandante Schettino. Alza lo sguardo verso la nave. Si sentono ancora delle urla provenire dallo scafo. «Lei non dovrebbe essere lassù?» gli chiede. E indica la Costa Concordia. «I gigliesi sono gente di mare, ne conoscono le leggi. Sanno che il comandante deve essere l'ultimo ad abbandonarla, la nave». Che si tratti di un peschereccio, di un gommone da turismo o di un transatlantico. Prima le donne e i bambini, ultimo il comandante. In quella domanda innocente pronunciata nella concitazione dei soccorsi c'è la peggior condanna morale che un uomo di mare possa ricevere. La mobilitazione dei gigliesi che si prodigano nel dare accoglienza ai naufraghi e aprono negozi e svuotano farmacie e aprono dispense per curare e sfamare i passeggeri è una delle pagine più belle invece di questa storia atroce. C'è già una prima sentenza. Schettino svicola, dice di essere scivolato dal ponte cadendo nella scialuppa, è una bugia e non sarà l'ultima. Ho bisogno di vestiti asciutti e di un posto dove dormire, aggiunge poi il comandante. La signora Franca lo fulmina con lo sguardo, poi gli indica la strada per l'hotel Bahamas. Adesso è nella hall dell'albergo e non è più solo. Viene circondato da alcuni dirigenti della Costa Crociere. Non parlare ai giornalisti. Glielo dice una donna bionda e l'avvocato che sarà poi sospettato di aver portato via il personal computer del comandante. Schettino sale nella stanza al primo piano. Scenderà poche ore dopo per rilasciare una breve dichiarazione ai giornali. You made me see ya. Can't take this life for nothing. Let me be ya. All alone. I left my throne. If I don't try another way, then I'll never know. So I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. I don't care anymore. But you say no name. I don't care anymore. Oh, you do need me. There's a drawer in a room in a house that's calling your name. That's calling your name. Calling your name. Buonasera, Porta Concordia, cortesemente, avete dei problemi a bordo voi? Sì, affermativo, abbiamo un blackout a bordo e stiamo verificando le condizioni. Che tipo di problema? Solamente il generatore, perché i carabinieri di Prato hanno ricevuto una telefonata di un parente, di un marittimo, che diceva durante il pranzo gli è cascato tutto in testa. No, negativo, abbiamo un blackout e stiamo verificando le condizioni a bordo. Sì, e la, siccome i passeggeri hanno visto che avete fatto indossare i giubbotti di salvataggio, è corretto? Ripeto, stiamo verificando le condizioni del blackout, stiamo verificando le condizioni del blackout. Quanto tempo avete questo blackout? Io ed il mio compagno siamo saliti alle 15.30 a Civitavecchia. Siamo entrati nella nostra suite e abbiamo messo a posto i vestiti. Abbiamo brindato e intorno alle 20 siamo scesi ai piani inferiori con l'idea di conoscere la nave e poi cenare. Quando è successo l'incidente, circa le 21.40, eravamo seduti al ristorante. Praticamente è successo tutto subito. Al ristorante, mentre eravamo seduti aspettando la cena che avevamo ordinato, abbiamo sentito un gran botto, un rumore assordante, fortissimo. Le luci si sono spente. Poi abbiamo sentito una specie di terremoto. Tutto che precipitava a terra, le stoviglie, i tavoli, le sedie. Dai piani delle credenze cadeva di tutto e la gente scappava e urlava cercando di andare sui ponti. Io sono rimasta seduta con il mio compagno, aspettando che passasse il peggio. Inizialmente ho pensato che si fosse incagliata, di certo non ho pensato all'incidente che poi insomma abbiamo scoperto successivamente fosse, tanto è vero che poi quando è tornata la luce e il ristorante era vuoto, c'era una ragazza incinta di qualche mese che era nel completo panico. Io cercavo di rassicurarla e le dicevo: mai visto quando sei salita quanto è grande questa nave, che cosa può succedere a una nave così grande? Poi dall'interfono hanno iniziato a parlare, hanno spiegato che c'era stato un blackout, di stare tranquilli, non era successo nulla. All'inizio ci avevamo creduto, visto che era mancata la luce per pochi secondi. Non ci abbiamo creduto più quando la nave ha cominciato ad inclinarsi in maniera evidente. Io ho avuto percezione del pericolo quando stavo solo sulla scialuppa. Lì ho veramente capito e temuto che fosse finita, perché la scialuppa non scendeva, visto che sbatteva sul dorso della nave. Era troppo inclinata. Persino la mia ha avuto difficoltà a scendere, ma nonostante tutto alle 23.30 eravamo sull'isola del Giglio. Da lì, seguendo le persone, siamo entrati nella chiesa già piena di gente. Il parroco cercava di accogliere tutti, faceva molto freddo. Tanti, tantissimi erano anche gli abitanti dell'isola con in mano vestiti e generi di prima necessità. Ho ancora contatti con la famiglia di albergatori che ci ha ospitato ed aiutato. Ormai anche loro sono la mia famiglia. Ma da quel giorno, per me, è cambiato praticamente tutto. Cambia il modo di approcciarsi alla vita. Capisci che in un minuto e mezzo puoi non esserci più. Quando ti rendi conto che hai un'altra chance, poi istintivamente ti trasformi. Prima ti senti eterno, tutti i progetti, gli obiettivi, il futuro. Ora pensi semplicemente all'oggi. Domani, forse, dopodomani, già è troppo lontano. Giving back the time, stealing my desire. She knows it's mad, the snow's come back. Dust your conscience. Quelle che avete appena sentito sono le parole del racconto vero e proprio rilasciato da Patrizia Perilli, che appunto è una giornalista di ADN Cronos, ma soprattutto ed è il motivo per cui spesso è stata chiamata a raccontare, e così abbiamo fatto anche noi quest'oggi. Era a bordo della Costa Concordia ed è di fatto sopravvissuta a quel naufragio. Pronto? Ciao Patrizia, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Grazie mille per essere qui e grazie per raccontare ancora. Immagino, Patrizia, che tu l'abbia fatto tantissime volte in questi anni il racconto. Immagino sia anche complesso da fare per te. Sì, è sempre molto complicato, certe emozioni non si dimenticano, è sempre molto difficile tornare a quei momenti, a quel vissuto, a quelle emozioni, però bisogna farlo, insomma, credo sia necessario anche per raccontare a testimonianza di quello che è stato, perché molto spesso si tende a dimenticare, a soprassedere, a passare oltre, ecco, no? Invece bisogna ricordarle alcune cose, soprattutto perché ci sono state 32 vittime, 32 morti che bisogna ricordare, insomma, hanno il diritto di essere ricordate. Assolutamente, devo dire che tra l'altro il numero delle vittime è forse la cosa che si ricorda di meno. In tutta questa storia si ricordano molto spesso le parole di Schettino, si ricorda quell'immagine incredibile che ci ha tenuto compagnia per quanto, forse un anno, ma 2 anni credo, la nave adagiata su un fianco, sì. E si ricordano invece molto meno il numero delle persone che hanno perso la vita. E quindi Patrizia, grazie per averlo fatto. Sono passati 8 anni, 8 anni precisi oggi. Quante volte ci pensi a quella sera? Ci pensi tutti i giorni? Perché dici la mia vita è cambiata? Ma perché non può non cambiare la vita dopo un'esperienza del genere. Quella notte io ho avuto chiarissima la percezione sulla scialuppa che era finita, l'ho anche detto, è finita, è veramente finita. Ho pensato in quel momento di chiamare mio figlio e dargli l'ultimo saluto. E quindi una volta che hai avuto un'emozione del genere, una sensazione, una percezione del genere, la vita cambia, la vita non si rimane più, non ho più ad esempio un'agenda che invece prima avevo e aggiornavo continuamente, costantemente, ero abituata a fare la programmazione della giornata di ora in ora, ecco, non ho più l'agenda, non programmo più, se voglio fare una cosa cerco di farla al più presto possibile. Nella vita le cose vanno fatte subito, perché l'indomani non sai mai che cosa può aspettarti. Cioè, l'orizzonte è più vicino, insomma, dopo una cosa di questo tipo. Di questo tipo. Patrizia, mi racconti invece cosa accade quando mettete piede a terra al Giglio. Di fatto i gigliesi sono tutti svegli e sono tutti in strada ad aiutare, giusto? Sì, assolutamente sì. Appena arrivati a terra non sapevamo dove andare, cosa fare. C'era una massa di persone pronti ad accoglierci con le coperte, con i vestiti, con tutto quello che poteva servire a persone che erano scese in quel momento da una nave in quelle condizioni. Ricordiamoci che io ero appena arrivata, ero salita su quella nave da poco, avevo un maglioncino, ma c'erano persone vestite con un vestitino da sera perché avevano partecipato alla serata di gala, per cui vestiti leggerissimi, certo. Ricordiamo che era il 13 gennaio, faceva un freddo terribile su un'isola come l'isola del Giglio, che è un'isola piccola e molto aperta, con delle temperature veramente glaciali, sì, molto basse. E subito il parroco ha aperto la chiesa, noi siamo andati nell'immediato, siamo andati in parrocchia, ma i negozi hanno riaperto, le famiglie hanno aperto le loro case, sono stati eccezionali. Se non fossero stati così bravi, così generosi, probabilmente la situazione sarebbe stata molto più difficile. Dopo quanto siete tornati a casa? Ma io sono tornata a casa con la sera dopo, perché sono arrivata a Porto Santo Stefano, perché poi da lì ovviamente ho chiamato l'agenzia, ho fatto i pezzi, ho cercato di scrivere, quindi sono arrivata, certo, a Porto Santo Stefano con l'ultimo traghetto, perché cacciata dall'esercito che insomma mi ha obbligato a tornare sulla costa. E poi c'è stata la conferenza stampa della Costa Crociera nel pomeriggio, quindi ho assistito a quella. Tu hai lavorato di fatto, insomma, sei rimasta lì per... All'inizio il panico, non sapevo che fare durante la notte, non sapevo gestire l'emozione forte, la paura, ecco. Poi invece ho sentito l'agenzia, un po' mi sono ripresa e ho cercato di lavorare. Poi tutti i colleghi che mi telefonavano perché volevano capire, sapere, per cui a quel punto ho superato il panico iniziale. Patrizia, l'ultima cosa, poi ti ringrazio davvero, ti lascio andare. Tu oggi, sappiamo che Schettino è stato condannato a 16 anni di carcere nell'ultimo grado di giudizio. Pensando a lui, provi qualche sentimento particolare, oppure diciamo non lo vedi come un capro espiatorio effettivo, lo vedi come un grande incidente dalla quale sei salvato? Insomma, diciamo che insomma, qualcosa poteva evitarlo, soprattutto l'incidente in sé, non dico che sia plausibile, però l'incidente avviene. Io lo colpevolizzo, cioè secondo me la colpa più grossa di Schettino è stata quella di non dare subito le indicazioni, certo. Sì, i 50 minuti in cui non si capiva che cosa fosse successo, la nave intanto si piegava, le scialuppe non potevano scendere, ecco, probabilmente qualcuno dei 32 morti poteva salvarsi. Invece la perdita di tempo, 50 minuti sono tantissimi. Io l'ho saputo che quello che stava succedendo attraverso una mia telefonata ai carabinieri, perché invece sulla nave ancora dicevano che c'era il blackout. Chiarissimo. Patrizia, ti ringraziamo davvero moltissimo per averci raccontato ancora una volta la tua versione di quella notte di 8 anni fa. Buona giornata, in bocca al lupo per tutto. Grazie a presto, voi. Grazie mille. Ciao. Sentiamo le borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare a Linea Dom. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta propositi per l'anno nuovo. Dieta. Sì, da lunedì. Palestra. Al massimo soft yoga. Prendermi del tempo per me. Sarà il solito tempo di un caffè. Almeno sul caffè non scendere a compromessi. Inizia l'anno con la qualità superiore di Nespresso. Con Nespresso White Days puoi avere macchine e caffè a un prezzo straordinario fino al 19 gennaio. Andare nelle boutique Nespresso o su Nespresso.com. Nespresso. What else? Fai già accesso ai dati di Banca d'Italia. Da oggi puoi essere sempre connesso e presidiare gli affidamenti accordati dalle tue banche. MF Centrale Risk aggiorna automaticamente i dati della centrale rischi effettuando le analisi tipiche delle banche. Potrai visualizzare i grafici in CR, i fidi accordati, gli utilizzi, gli sconfini e tramite l'app riceverai le notifiche delle anomalie rilevate. Richiedi una dimostrazione su mfcentralerisk.it. mfcentralerisk.it, una garanzia Milano Finanza. Tuta? C'è. Guanti? Anche. Paraorecchie? Due paia. Ok, andiamo pure al lavoro. Un vero professionista non smette mai di esserlo, nemmeno quando la temperatura scende a zero. Se scegli un veicolo Fiat Professional a gennaio, anche l'anticipo va a zero. Acquistalo ora e inizia a pagarlo ad aprile. Canone da 139 euro al mese, TAN 3,80, tasso leasing 3,88. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiatprofessional.it. Dal 17 al 22 gennaio, appuntamento con Vicenza Oro, vetrina delle eccellenze italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero, organizzata da Italian Exhibition Group, e con VO Vintage, in mostra per la prima volta il vintage di altissima gamma di orologi e gioielli, con la possibilità per collezionisti e appassionati di vendere o acquistare pezzi unici e rari. Radio 24 sarà presente a Vicenza Oro con dirette e appuntamenti speciali. Tutte le info su radio24.it. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. In una puntata che è dedicata al vizio della superbia, nel giorno in cui 8 anni fa naufragava la Costa Concordia, dopo la storia del suo comandante e dei passeggeri, abbiamo sentito anche la voce di Patrizia Perilli, appunto, che era a bordo e ci ha raccontato che cosa è accaduto quella notte, perlomeno cosa è accaduto a lei e alle persone che stavano vicine. Ora vi raccontiamo un'altra storia. Rimaniamo sempre in mare e rimaniamo sempre sulla nave da crociera. È la storia di un altro naufragio e di un altro comandante altrettanto superbo e probabilmente altrettanto accidioso. E raccontiamo però anche di un chitarrista che invece è super coraggioso. È la storia dell'affondamento della nave Oceanos. State con noi. Le navi da crociera oggi sono numerose e sono a buon mercato. Sono una valida alternativa alle vacanze in luoghi esotici, perché il fatto stesso di vivere su una enorme città galleggiante che la notte naviga, permettendo di svegliarsi la mattina in un porto sempre diverso, è già essa stessa un'idea di vacanza insolita. Ma 20 o 30 anni fa, le crociere erano vacanze di lusso, con prezzi alti, navi più piccine e spesso meno attrezzate di quelle di oggi. Oggi siamo a bordo della nave Oceanos, una nave battente bandiera greca. costruita nel 1952. Siamo nell'agosto del 91, il giorno 3 per la precisione. La nave ha quindi quasi 40 anni di vita. A bordo ci sono 571 persone, di equipaggio 180. Il resto sono passeggeri che stanno facendo una vacanza. La nave ha da poco lasciato il porto di East London in Sudafrica, è diretta a Durban. Quel braccio di mare è noto ai marinai che lo frequentano per i forti venti che spirano sempre a quelle latitudini e per le forti correnti marine. La nave salpa con condizioni meteo già molto complicate e al sopraggiungere della sera le condizioni peggiorano ulteriormente. Onde di circa 9 metri di altezza, vento di 40 nodi, più o meno 80 km all'ora. La nave è sballottata da ogni parte. I camerieri del ristorante fanno fatica a reggersi in piedi in mezzo ai tavoli. Ogni tanto il rumore di piatti o bicchieri che dai tavoli finiscono per terra, vanno in mille pezzi, risuona dappertutto. E poi, all'improvviso, la luce si spegne. I passeggeri trattengono il fiato, qualcuno si domanda cosa stia accadendo, ma le risposte sono evasive. Poi, ad un tratto, il rumore dei motori, che è un costante suono di sottofondo durante tutta la navigazione, svanisce. I motori si spengono. Le persone escono dalle cabine, si alzano dai tavoli, si riversano nella grande hall dove, oltre ad esserci un bar e il palco per gli spettacoli, ci si raduna in caso di emergenza. E a questo punto la storia della nave Oceanos e dei suoi passeggeri diventa in parte, in una grande parte, la storia di Moss Hill, un giovane uomo che nella vita fa il chitarrista e che da anni, insieme a sua moglie, lavora sulle navi da crociera come cantante e intrattenitore. È Moss che, per calmare la situazione, afferra la sua chitarra acustica e improvvisa una canzone lì, nel buio della sala di una nave da crociera piena di gente preoccupata, mentre fuori infuria una tempesta. Moss è bravo e la gente per un attimo sembra tranquillizzarsi, ma tutti, lui per primo, si aspettano che da un momento all'altro qualcuno all'interfono parli, si senta il suono dell'interfono, quel blim blon che introduce un annuncio, un messaggio, qualcosa che spieghi cosa sta accadendo e che dica a loro che cosa fare. Ma passa il tempo e oltre al suono della chitarra e del vento che spinge sulle murate della nave non si sente nulla e non accade nulla. Moss allora scende dal palco e dice a sua moglie che vuole andare a capire che cosa sta accadendo, bisogna dare una qualche comunicazione ai passeggeri. Si dirige verso l'ufficio del direttore di crociera. Quando ci arriva, lo trova insieme al comandante. Il comandante è pallido in volto, sta dicendo al direttore che la tempesta è molto severa e ha deciso di far evacuare i passeggeri. Bisogna abbandonare la nave. Moss Hills non è un marinaio, è un chitarrista che suona sulle navi e un po' di esperienza di navigazione se l'è fatta. Quando sente il comandante dire che bisogna abbandonare la nave, è perplesso. Gli chiede se ci sia del fuoco, se la nave stia affondando, e le risposte sono «No, no, abbandoniamo la nave come precauzione». Abbandonare una nave significa salire su piccole scialuppe che vanno messe in mare, in una notte buia, come la pece, con onde alte e vento molto forte. Tutti sanno che, se la nave non è in pericolo, rimane il posto più sicuro dove rimanere, se ci si trova in mezzo al mare. Ora, tutti sappiamo che il volere del comandante su una nave non è negoziabile, ma Moss non è persuaso della scelta e decide di voler andare fino in fondo e capire che cosa sta accadendo. Prende con sé Julian, anche lui è parte dello staff degli spettacoli. è un prestigiatore. Insieme raggiungono la sala macchine, dove di solito c'è un grande rumore, e invece tutto è silenzioso. Moss si accorge che una porta stagna, che di solito è aperta, è stata chiusa. E se è chiusa, la ragione è che c'è un'emergenza in corso. Moss avvicina l'orecchio alla porta, che è fatta di un metallo spesso e pesante, e sente distintamente il rumore dell'acqua che entra violentemente nella nave. Ora sì che Moss ha paura. Una paura palpabile, perché è chiaro che c'è una falla nella nave e che l'Oceanos sta affondando. Quando tornano nella sala del ballo, i passeggeri sono nel panico, ma nessuno dell'equipaggio si vede in giro. La gente cerca di raggiungere le scialuppe e le persone che gestiscono l'evacuazione sono proprio Moss e i responsabili dello spettacolo. Sono un mago, un cantante e una ballerina. Danno indicazioni su quale scialuppe salire, quando le barche sono piene e quando vanno calate in acqua. Ed è qui che si accorgono che tra i passeggeri si sono mescolate anche molte persone dell'equipaggio che vogliono solo abbandonare la nave. A bordo ci sono 571 persone e più della metà, nel giro di qualche ora, riesce a salire sulle scialuppe, mentre la nave continua ad inclinarsi inesorabilmente su un fianco. Moss si rimette a cercare il capitano e il suo equipaggio e quando raggiunge la plancia di comando vede che è vuota. Nessuno sta facendo nulla, nessuno sta gestendo la situazione e nessuno ha mandato un segnale di soccorso e sulla nave ci sono ancora 200 persone abbandonate. Moss allora si avvicina alla radio e lancia il Mayday. Mayday, Mayday, ripete ostinatamente, fino a quando qualcuno risponde. La voce chiede indicazioni sulla posizione, ma Moss non ne ha idea. E solo a quel punto si accorge che in un angolo, al buio, c'è qualcuno che se ne sta seduto fumando una sigaretta. È il comandante. Comandante, venga alla radio, dobbiamo dare la posizione ai soccorsi, gli dice Moss. Il comandante, con lo sguardo nel buio e la voce placida, gli risponde: no, no, non serve, non è necessario. E mentre pensa che il comandante è perso, Moss finalmente sente il rumore di un elicottero in cielo. Riesce a comunicare con loro alla radio, ma i soccorritori dell'esercito gli dicono chiaramente che potrebbe non esserci il tempo per salvare tutte le 200 persone che sono rimaste sulla nave. Dovranno infatti imbracarne una ad una e salvarle, una alla volta. Moss non si dà pace, organizza le operazioni insieme agli altri artisti di bordo. Sua moglie Tracy tiene in fila le persone e le tranquillizza mentre la nave è sempre più inclinata e lentamente si svuota. Una persona alla volta, fino a che, quando l'alba sta ormai per sorgere, Moss e Tracy si accorgono di essere rimasti solo loro due e il soccorritore dell'esercito, che sta arrivando, si sta calando dall'elicottero. Tracy sale per prima, Moss è l'ultimo ad abbandonare la nave. Dall'alto ho guardato l'oceano, racconta. Affondava in un mare di schiuma con la poppa impennata e ho provato una forte pena per lei. Mi sembrava di abbandonarla. Quando finalmente arriva a terra, tra la gioia e i ringraziamenti dei passeggeri, gli si avvicina un militare, gli chiede: è rimasto qualcuno a bordo? E lui risponde: no, sono tutti salvi, è finita. E solo adesso scoppia a piangere. I miss my friends and my guitar, knowing I can travel far, but now I'm only standing here completely paralyzed with fear. The fear of who I'll come to be, of all the weaknesses in me. I truly thought I was prepared, but now I'm panicked and I'm scared. But how did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a coward? How did I become a Si intitola Coward, codardo, il brano che Luca Micheli ha scelto per chiudere questa storia che noi abbiamo ascoltato in uno dei nostri podcast preferiti. Si chiama Snap Judgment, la puntata si intitolava The Sinking of the Cruise Ship Oceanos. Ora sentiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra, storie dei nuovi vizi capitali. È una puntata che parla di superbia, ma che parla anche di naufragi, o forse di naufragi che sono legati alla superbia. Vi abbiamo appunto raccontato la storia della nave Oceanos, che è una storia che risale al 1991, e la storia invece purtroppo più tragica e molto più recente, nel suo ottavo anniversario, di fatto, era il 2012, il 13 gennaio del 2012, dell'affondamento della Costa Concordia. Ora però, in questa puntata, che appunto è dedicata alla superbia e ai naufragi, abbiamo cercato di trovare un altro verso per raccontare questa storia. Abbiamo cercato di capire come si poteva raccontare storie di naufragi e di altruismo, e insieme ad Anita Panizza l'abbiamo trovato grazie ad un libro che è uscito qualche mese fa, nell'ottobre del 2019, che si intitola Io non spengo nessun motore, pubblicato da Solferino. L'autore si chiama Pietro Marrone ed è un uomo che di mare ne sa. Pronto, comandante Marrone, buongiorno. Salve, buongiorno. È un piacere sentirla innanzitutto. Anche per me è un piacere parlare con voi. Il 19 marzo... La mia voce, che sono un po' raffreddato. Non si preoccupi, comandante. Noi, l'importante è avercela, l'importante è che sia qui con noi. Sì, sì. Cerco di raccontare brevemente la sua storia, la storia del libro, poi chiaramente lei mi dà una mano. Il 19 marzo del 2019 lei rientrava a Lampedusa con dei naufraghi a bordo, delle persone che arrivavano dall'Africa e che lei aveva salvato su una barca in avaria. E le veniva intimato di spegnere i motori. C'erano condizioni avverse e lei disse questa frase, che è il titolo del suo libro, che è Io non spengo nessun motore, sostanzialmente perché è molto pericoloso, mi corregga se sbaglio, e poi perché lei stesso ha dichiarato, insomma, le persone che sono trovate in mare vanno salvate. Dico bene? Sì, le persone devono essere sempre salvate, anche il codice della navigazione lo dice bello chiaro e tondo. Io, in base allo spegnimento del motore, oppure una storia vecchia che il libro ne parla, di mio cugino Gaspare, affondato a 22 miglia a Lampedusa, causato sempre con cattivo tempo, si sono spenti i motori, sono morti, c'erano 9 persone di equipaggio, tutti ragazzi giovani e forti con la voglia di vivere, e purtroppo si spende il motore, noi sappiamo quando si spegne un motore, una nave con cattivo tempo perde la stabilità. Certo, è totalmente in balia. Non ha più la stabilità che deve avere una nave. Lei era al comando della nave Mare Ionio, giusto, di Mediterranea? Sì, al comando della democchiatore della Mare Ionio. La nave è ancora sotto sequestro in questo momento? Allora, io ero imbarcato da poco e mi è costato carissimo questo salvataggio. E sono stato più di 7 mesi a terra, causa sempre per la democrazia della legge che c'è in Italia, quindi sono stato fermo. E attualmente siamo ancora sequestrati nel porto di Licata e spero a breve che ci liberano e andiamo e facciamo il nostro lavoro. Continuate a fare il vostro lavoro. Comandante, lei ha una storia di mare lunghissima, nel senso che lei, per quanto sia ancora molto giovane, ha cominciato a 24 anni, giusto? Sì, io a 24 anni ho fatto il comandante, ma fino da piccolo con mio nonno, che come racconto nel libro, che mi portava con la manina a bordo dei pescherecci, mi insegnava a fare nodi alle rese, ho incominciato da piccolo, io ero piccolino, a fare una vita così vissuta mezzo, diciamo, nelle barche, diciamo con gli amici. Il nostro gioco era andare a bordo e aiutare i nostri nonni, i nostri genitori a scendere il pesce, oppure sempre a lavorare. Questo è il discorso del... Comandante, invece è una questione un po', diciamo, meno biografica e più giuridica. Lei in questo momento è sotto accusa per via del salvataggio del marzo scorso, cioè per il fatto di avere di fatto disobbedito a un ordine della capitaneria di porto ed avere portato in porto la Mare Ionio con tutti i passeggeri, oppure no, oppure non ha questo problema? No, io per adesso, diciamo, siamo sempre sotto accusa, ma la maggior parte delle cose le abbiamo spiegate abbastanza bene. Ma siamo sempre indagati, come dire. Chiarissimo, insomma, siete in attesa del giudizio. Però io vi consiglio davvero di leggere il libro di Pietro Marrone, Io non spengo nessun motore, pubblicato da Solferino, se vi interessa o se volete saperne molto di più. Comandante, grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Io grazie a voi, a presto. È stato un piacere parlare con Radio 24. Buona giornata. A tutti, un abbraccio. Grazie. The currents will shift, glide me towards you. No, something's left, and we're all allowed to dream of the next. Oh, the next time we E chiudiamo la puntata di oggi che è dedicata appunto alla Superbia. Abbiamo parlato di naufragi, abbiamo parlato dell'anniversario della Costa Concordia, del tragico avvenimento della Costa Concordia di 8 anni fa, e ora chiudiamo invece con la nostra storia seriale che è cominciata la scorsa settimana. È la storia raccontata dalla viva voce di un giovane uomo che è figlio di una delle vittime delle Brigate Rosse e che in cuor suo ha davvero allevato, ha coltivato l'ira per anni e anni, fino a che grazie anche ad un percorso di aiuto è riuscito ad uscirne. Stiamo raccontando la storia di Sergio Bazzega, che è stato appunto un carabiniere vittima delle Brigate Rosse, ma la stiamo raccontando grazie alla voce di Giorgio, che a Mauro Pescio ha raccontato tutti i dettagli di questa storia, anche di come il questore, un collega del padre, di fatto sia diventato un suo amico. Allora Giorgio, facciamo un passo avanti. Da quando è successo, dal 76, dal 15 dicembre 76, a quando tu hai deciso di vendicarti? Sì. Da bambino? Un'infanzia felicissima, perché ho avuto proprio un'infanzia, cioè a parte quella roba lì, felice, perché noi siamo sempre stati una famiglia non troppo numerosa. Poi negli anni, cioè, siamo sfigatissimi, perché negli anni siamo stati falcidiati da assassini, malattie, cazzi, robe, siamo rimasti in 4, in 5, che siamo strauniti ovviamente. Un gruppo di amiche di mia mamma, tanto unite, tant'è che io per queste non le chiamo amiche, sono le mie zie, e i loro figli sono i miei cugini, e loro e io per loro uguale, cioè si è creata una famiglia allargata quasi. Dopo che papà è venuto a mancare, la nostra casa è sempre stata piena di persone. Oltre ai familiari e agli amici di mamma, in casa venivano molto spesso alcuni colleghi stretti di papà. Fra questi c'era il dottor Vito Plantone, che è stato anche questore a Palermo negli anni degli attentati a Falcone e a Borsellino. Era una persona straordinaria, professionalmente e umanamente. Io gli volevo un bene dell'anima, perché lui ha voluto a tutti i costi papà nella sua squadra. E quando papà è stato ucciso, lui ha vissuto tutto con un senso di colpa e un grande senso di responsabilità nei miei confronti. È stato incredibile. I primi tempi ce l'avevamo sempre in casa. Per me era lo zio Vito. Tutti i Natali che Dio mandava in terra, finché non è mancato, mi veniva a prendere e mi faceva fare un giro con la macchina della polizia. Può sembrare una cosa ridondante, ma lo zio Vito lo faceva davvero per me. Sapeva che io associavo la macchina della polizia a papà, e tutte le volte era un'avventura che mi emozionava moltissimo. Dopo il giro in macchina salivamo sull'auto privata e mi portava in un enorme negozio di giocattoli, sempre lo stesso, e mi diceva: scegli il regalo che vuoi. Adesso, se può sembrare materiale, ma non era tanto quello, era proprio la sensazione che mi dava lui. Poi era un uomo molto sicuro, che ti dava molta sicurezza. Scusa, mi sono emozionato, che gli voglio tanto piacere, un ricordo di una persona. Beh, qui ero tanto affezionato, ero veramente tanto affezionato, e quest'uomo ce l'abbiamo avuto sempre tanto vicino. La chiudiamo qui, la chiudiamo così, questa puntata di Linee d'Ombra. Abbiamo sentito Patrizia Perilli che ci ha raccontato quello che è successo quella notte, la notte di 8 anni fa al largo dell'isola del Giglio. Vi abbiamo raccontato la storia della Oceanos e del suo comandante, ma soprattutto del suo chitarrista, del chitarrista di quella nave da crociera che ha salvato 400 persone, ed era semplicemente il chitarrista, non era né un comandante né un membro dell'equipaggio, era il 91 ed eravamo al largo delle coste sudafricane. E poi abbiamo sentito raccontare che cosa è successo quando quando il capitano, il comandante della nave Mare Ionio, ha deciso di non spegnere i motori e arrivare in porto, e ce l'ha raccontato nel suo libro Io non spengo nessun motore. Ma soprattutto qualcuno ci ha mandato anche un libro per approfondire qualcosa di più, è un libro uscito un anno dopo il naufragio della Costa Concordia, si intitola Molto grossa, incredibilmente vicina, un anno con la Concordia sotto le finestre, lo ha scritto Lorenza Pieri, se volete saperne di più. Ora lasciamo la linea al GR e noi torniamo domani a raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!